Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Per me ritornare a viaggiare in treno dopo l'estate è un po' come tornare a lavorare e osservare i volti delle persone che ricominciano a prendere il treno per impegni professionali, non soltanto per andare o tornare nei luoghi di vacanza. È un'esperienza che in realtà mi sta insegnando molte cose. Il treno è il lungo convoglio dei viaggiatori che hanno ancora la nostalgia negli occhi e hanno ancora quello sguardo perduto verso l'orizzonte, che vedono impunemente rappresentare il calo totale di ogni seduzione meteorologica. Fuori piove improvvisamente, si presenta un autunno piovoso e quindi anche lo strimpellare giocoso della ragazza con la chitarra che riappare nel mio scompartimento, perché anche lei andrà da qualche parte, devo dire che mi risulta quasi tedioso, se non fosse che lei in fondo è una nota allegra comunque in questo uggiosissimo viaggio di dopo estate. Hai lavorato, non hai fatto vacanze. E poi sono andata in Costa Azzurra. Beh, butta via, hai detto. No, una settimana a lavorare in Costa Azzurra. Hai fatto la cameriera in Costa Azzurra? Ho fatto di tutto in Costa Azzurra. No, di tutto. È un termine ambiguo. Che di hai fatto tutto in Costa Azzurra? Ho fatto anche la cameriera. Sono andata lì da mia zia perché ha aperto una struttura. Allora, in teoria era vacanza. Un albergo ore, cosa c'è? Sì, un albergo ore con l'estetista. L'estetista chi c'era? Tua cugina? Non l'hai detto. Come fai? Una volta avevi detto c'è una cugina faccia l'estetista. Una è vero, era così con lei stai. Stavo con lei, sì. E cosa allora, fa tu tua devi cugina? Sapere la che tua cugina è cosa esperta? Adesso ti racconto la giornata tipo. No, basta, ti racconto la giornata va tipo. Va bene, sentiamo. Ci alzavamo, allora lei all'1:30 di sera di solito ci saluta. No, la prima serata siamo arrivati là. Subito sono fatto il bagno in piscina. La Costa Azzurra vera, quella figa. Sì, stavamo, guarda, tra Saint-Tropez e Cannes. Va bene, ok. Bello, bello. E la prima sera, ah sì, domani andiamo a Saint-Tropez con la barca. Qui c'è una zia ricca, cioè. Una zia che deve ridiventare ricca, allora sta lavorando anche lei. Però è un'ex ricca. Sì, in tutti i sensi. Ma parla francese con la Remoche. Lei parla tutte le lingue, ti fa capire tutte le lingue. Mia cugina, allora ti racconto questa cosa. Il giorno dopo ci svegliamo piene, promesse di tante cose da fare. Andiamo a Saint-Tropez, sì, poi andiamo di là. Mia zia, ovviamente siamo svegliate tardi, alle 11. Ah, visto che state qua, aspetta, prendi questo coso, vai a portare al cliente. Lui parla francese, parlaci te che lo parli bene. L'ha messo a lavorare. Io arrivo là, buongiorno, dopo 2 secondi mia zia mi appare dietro e comincia a parlarmi sopra. Io vabbè, ok, ci ho messo a lavorare, esattamente. Perciò noi scappavamo la sera con le biciclette, ci siamo fatte penso 20 chilometri per andare al primo posto bello. Siamo andate in una, c'era un locale sul mare. Vabbè, diciamo. Sfigate due in bicicletta, infatti, cioè. No, eravamo alternati, siamo arrivati in questo locale. Vi cambiavate poi di nascosto dietro un no, cespuglio? No, perché non avevamo tempo, perché se scendevamo sotto a cambiarci, poi ci beccava mia zia. Ah, che fate? Dove andate? Perciò era una fuga. Beh, in bicicletta andavate era in un locale fuga. Notturno. Siamo andati in un locale, sulla spiaggia, c'erano ovviamente tutte macchine bellissime. Ci vanno cacciato così. E butta fuori. Noi siamo arrivate con le biciclette, alla fine abbiamo fatto una specie di colletta, siamo entrate dentro. Ma sembravate due povere, però. Sembrammo due un po' scafa, un po' sceme, non lo so, un po' dopo 12 ore che lavoravamo, non lo so neanch'io che cosa sembrava. Vabbè, quello è un posto di ricchi, però gli altri hanno tutti sì, ricchi. Sì, infatti. Qui donne bellissime, super profumate, scarpe da miliardi di euro. Ragazzi con la camicia sbottonata, tutti abbronzati, così. Beh. Che se ti dico quello che abbiamo preso noi da bere. Acqua minerale. La mia cugina non sa parlare inglese e francese. e sa parlare italiano e quando si trova in crisi parla spagnolo. Scusas. Penso che a Cannes puoi parlare anche italiano, ti capisco. Ma non eravamo a Cannes, in bicicletta non ci siamo arrivati a Cannes. E abbiamo preso l'acqua, sì, poi lei ci ha fatto mettere dentro la cannuccia, così sembrava qualcosa di... Giravamo. Madonna, che tristezza, una cosa di una tristezza. Ma non è meglio andare in un posto meno ambizioso e berci una birra? È quello che dico io, solo che ormai eravamo andati lì, non c'era nessun altro posto. Ah, due morte di fame. Poi ci hanno offerto da bere però, Grazie. Ci hanno offerto da bere. I signori però... ricchi con le mogli, con le... No, erano abbastanza giovani. Ricchi però. Eh beh sì, saranno stati ricchi, ci hanno offerto. Ha detto queste due poveracce, mo ce le portiamo in giro. Ah, l'Italia, l'Italia. Vabbè, se mica stavi in Australia, stavi ai confini con l'Italia. Lo so, ma non è Monte Carlo. Quando tu vai nel sud della Francia, ci sono delle zone proprio dove. È che gli italiani gli stanno sulle palle da morire. No, dipende, se gli conviene, sì. Vabbè, hai trovato questi ragazzetti ricchi, però, di buona famiglia, sì. Molta puzza sotto al naso. Sì, però erano simpatici. Che hanno detto due plebee queste con la Coca-Cola, con la Coca-Cola ci facciamo quello che vogliamo. Con l'esatto, sì. E che l'hanno offerto? Che vi hanno offerto? Due morte di fame con l'acqua in mano, dai. Ma lo sai perché lo dico? Non per disprezzo. Vabbè. Perché se potete andare a un posto adeguato alle vostre esigenze. Allora, noi non lo sapevamo. Abbiamo detto, beh, ormai entriamo. Vabbè, allora, questi cosa vi hanno offerto? Basta. Che vi hanno offerto? Ci hanno offerto, che era? Lo champagne, non mi ricordo. Vabbè, chiaro, di fronte al bicchiere d'acqua. Poi pensavano, poverini. Anche un canarino è una bella bevuta. Poverini, esatto. Ci dava la testa già l'acqua. Perciò pensavano che poi rimanevamo là con loro a parlare. Vanno fatto bere, quindi. Sì, vabbè, ma capirai, mia cugina c'ha la resistenza di un camionista. Io facevo finta di bere. Ma hanno fatto dell'avanzo, sì, certo. Sì, ma infatti poi... Avanzi di che tipo? Aspetta, poi io e lei siamo andate perché volevamo andare... Raccontami però... Fammi parlare! Siamo andate a ballare, uno di questi ci viene a prendere dopo un quarto d'ora. Ma cosa fate qui? Ma allora, ma tornate a bere, dai, venite! Erano tutti maschi loro. Sì, e noi siamo tornate dopo un minuto. Comunque, stavamo vedi che anche i ricchi sono sfigati perché che stanno. No, ma la cosa bella è che ci hanno detto: dai, tornate qua. Siamo tornate al tavolo, loro sono spariti. Sono andate a prendere da bere altre cose. A tirarsi una pista di coca. A prendere altre cose. Io, mia cugina, ho detto: ma sai che ci frega, ma torniamo a ballare. Siamo tornate a ballare. Questi sono visti e ce ne andavamo via. Ci hanno guardato malissimo. Lì hanno odiato gli italiani, secondo me. Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Sì, ma come doveva... Qual era la piega della serata? Erano immaginato loro, fammi capire. Ma chi se ne frega? Potevano venire a ballare con voi, scusa. Ma no, perché volevano conversare, parlare, farsi vedere. Ma cosa vi raccontavano nei pochi minuti che... No, niente, non ci raccontavano niente. Gli italiani così. Ma italiani, cioè, mi sembra assurdo. Perché è al confine con l'Italia. Ci sono più italiani che francesi. No, ma è così, guarda, che se vai nel sud profondo della Francia. Non è, te l'ho già detto. Sì, non hanno mai visto un italiano, è una novità. No, ma che fanno finta che, oddio, lo charme delle italiane. Oddio, l'italiane, muà, la pizza, le cose. È così. Il bandolino. Sì, ma infatti io le guardavo e dico, vabbè, ok, è arrivato il momento di andare. Sei finita in una sacca, non lo so, spazio temporale inesistente. So solo che siamo tornate. Vabbè, sembra un film di Alberto Sordi, capito? Cioè, non lo so. Non lo so, abbiamo trovato forse l'unico posto spiegato. Ma ci mancavi, chiedevano, fateci gli spaghetti col pomodoro. Sì, domani allora cucinate voi, certo, sulla nostra barca, col grembiulino. No, però, nude, naturalmente. No, certo, col grembiulino nude, col costume forse, non lo so. Però siamo rimaste nell'unico posto sfigato, che ti devo dire. Poi siamo tornati a casa con la bicicletta e il giorno dopo lei si è svegliata a l'una. Forse sapevate un po' di cipolla, sapevamo di tutto, guarda, di roast beef, di patate, di pesce, di tiramisù, di tutto quello che... Vabbè, loro fanno una cosa perversa, capito? Sì, hanno detto, ecco, stasera provate. Proviamo il coito con la plebea, che cose. Poi abbiamo detto, no, guarda, noi siamo in bicicletta. In bicicletta? Ma come ci siete arrivati qua in bicicletta? Con la bicicletta? E loro avevano la Ferrari. Allora, voi la caricate sulla nostra macchina e noi vi portiamo a casa, dico, sì, certo. Beh, certo, hanno un SUV gigantesco. Sì, esatto, sicuramente non finiscono più. Con le ruote alte 6 metri. Sì, esatto. Beh, come questa è stata la botta di vita di tutta l'estate. Ai, ai, ai. Due sfigatoni solitari ricchi che vanno preso, dice, due pollastre povere, ce le spegniamo praticamente a buon mercato. Niente. Guarda, non mi ricordo nemmeno poi cosa è successo. Beh, dai, su, sera. Che tristezza. No, lo so, no, abbiamo veramente. Quindi hai fatto la serva per tua zia. Abbiamo tanto lavorato. L'unica botta di vita. No. Abbiamo tanto lavorato. Come si chiama una non retribuita che fa dei lavori? Ma che c'entra? Stavo lì in mezza vacanza. Cioè, ovviamente sì, l'aiutavo. Il periodo che ti lasciava la libera uscita tua zia, quelle due ore al giorno, che facevi? Poi un giorno siamo andati a vicino Saint-Tropez. Vicino, perché sempre in bicicletta. Vicino. Non trovo, stava lontano là così. E lì ti fanno pagare anche la percorrenza plebea. Lì, cioè, guarda, beh, lì da povera paghi una tassa. Lì, esatto. Sì. Cioè, quanti soldi c'hai in tasca? No, sono troppo pochi, non puoi entrare. Sì, ma però... io una cosa ne devi spiegare. Tu sei giovane e intelligente, quindi non stiamo parlando di povere ma belle, dei fantastici anni 50. Ecco. Poveri. Cioè, povere ma sì, ma il tuo potere d'acquisto ti permette di fare una vita fantastica, puoi andare in qualsiasi locale dove con 10-15 euro entri e sei la benvenuta. No, ma allora ti spiego perché. Perché andare in un posto dove manco l'acqua ti puoi ti pagare. Ti spiego qual era lo spirito. Tutti dicono sempre: ma vai a divertirti, vai, entra in questo posto. Solo io ho detto: va bene, ok, io non volevo andare, ma dico una sera differente, facciamo, andiamo a ballare, eh? Poi ti rendi conto, entri e tutto fumo, dico ecco perché non ci vado. Beh, cosa pensavi posti di trovare? Ma no, ma dici, ti lascio andare una sera, lasciati andare una sera. Dipende dove ti lascio andare, perché lì ad esempio Ma sono varche confini sociali che ci tengono in tante stie per polli, ognuno separato dagli altri, confini invalicabili anche se non tracciati materialmente. È chiaro, va di fronte alla delusione e alla frustrazione. Ma non era più divertimento, perché poi alla fine siamo andate a riprendere le nostre bici che non c'erano più. Ve l'hanno anche fregato. Allora abbiamo pensato, cacchio, cioè sono tutti ricchi e ci hanno pure fregato le bici. Beh, c'è qualcosa classico che non va. Invece poi ce l'avevano nascosto, non so per quale motivo. Perché eravate delle poveracce. Forse perché si vergognavano a farle vedere anche là brutto davanti. Erano brutte le biciclette. Si vergognavano. No, erano belle. Erano molto belle. C'erano il cestino, la torcia. La torcia, tu per legge non avere tutte le biciclette, non avere il fanale. Vabbè, comunque, vabbè, basta, è andata così. È ormai e nel cestino ci mettevate, scusa. La merendina incartata con la frittata. Il resto del tiramisù che avrei dato mia zia. Vabbè, che triste. Guarda, mi hai messo uno squallore. Senti, ma tu mi hai fatto una domanda e io ti ho risposto. Allora pensavo che, non so, una botta di vita. No, dai, ci sono state. Oh, vedi, allora dai, ci sono state. E allora racconta. Dai. Racconta, dai. Vabbè, dai, ormai abbiamo raccontato questa, te la racconto la prossima volta. Ma racconti la prossima volta, mi accontento. Dai, te la racconto la prossima volta. Poi adesso mi fai Carla Bruni. Vuoi una canzone di Carla Bruni? Sì, cioè, beh, certo, ci sta bene. Ok, ci proviamo. No, devi farla per forza. Dai, ci proviamo. Perché era il modello irraggiungibile che hai tentato di raggiungere e nella tua emulazione fallita sei rimasta frustrata, sì. Ti sei rovinata. Allora adesso ci canterò sopra. Si cantami Carla Bruni, dai. Il conato che è impellente a questo punto avrà il suo esito. Ok. Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je me ne souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je vois plus les traits. Il vous aime, ça s'est crâné du pas, je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais t'as vraiment dit que tu m'aimais encore. Non, non, non. Vedo alcune persone che leggono. Devo dire che conforta viaggiare nei treni italiani, perché molte persone leggono anche libri. I grandi nostalgici della lettura perduta qui potranno riconfortarsi. Si legge molto nei treni italiani e leggono molto anche le donne. E la suggestione di tipo francese che mi lascio alle spalle con Carla Bruni cantata La ragazza con la chitarra mi ricorda però un episodio recentemente da me affrontato professionalmente, che mette insieme questo sogno ormai immarcescibile, anche se forse probabilmente mai abbastanza comprovato, almeno ai nostri tempi, della Francia, luogo dell'amore, del romanticismo legato alla vita parigina, e l'iniziativa di una casa editrice che produce e stampa libri zozzi, che ha deciso di associare ai libri, per il piacere delle loro lettrici, dei vibratori sincronizzati. In Francia c'è chi sta concretamente lavorando a una collana di letteratura erotica che dovrà necessariamente essere fruita con un coadiuvante emotivo finalizzato a sottolineare con sensuale effetto vibrante i passaggi più intensi del testo. Più crudamente espresso potrebbe essere definito un sex toy che si interfaccia attraverso un'app e un ebook, dove man mano che si procede nella lettura si può fare intervenire un estruso oggettino in silicone medico che assomiglia a una pipa tirolese, ma pare frutto di una curatissima progettazione ergonomica da parte di uno staff d'esperti di missilistica viscerale. Alla fine un vibratore, che con uno sforzo creativo assai modesto è stato battezzato Little Bird, può essere collegato a dei racconti erotici digitalizzati attraverso un'applicazione chiamata B-Sensory, che può essere installata su qualsiasi smartphone, che è collegato con il Little Bird via Bluetooth e sincronizzato con dei racconti erotici. Il telefono funge da telecomando, basta sfiorare lo schermo con la mano per innescare delle vibrazioni che possono produrre ben 10 diverse frequenze. L'oggetto ha un'ora e mezza di autonomia, poi deve essere ricaricato, ma è anche giusto che chi legge faccia una pausa per riposarsi gli occhi. Alcune case editrici francesi hanno già firmato un contratto per la fornitura di testi erotici. La startup è sponsorizzata dalla scrittrice Françoise Rey, che è apparentemente meglio conosciuta in Francia come la signora dell'erotismo. Lo stimolatore alla lettura sarà commercializzato a novembre del 2015, ma sul raffinato sito che lo promuove può essere già prenotato. Il vero dilemma sarà immaginare una possibile evoluzione del progetto che non lo releghi al solo settore dell'erotismo, ma allarghi le sue potenzialità anche all'editoria d'altro genere, fruibile da lettori di genere non solo femminile. È sicuramente meno facile e scontato, ma lavorando su possibili nuove periferiche, nulla impedisce che sia possibile immaginare un invito alla lettura con stimolatore vibrante annesso che magari prometta un massaggio cervicale per la saggistica politico-economica, come una sollecitazione occipitale per testi filosofici particolarmente profondi. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ecco, nel viaggio delle rimpatriate poteva mancare lei, la vedo lì, stupenda, abbruzzatissima, vestita di bianco, perché il bianco, si sa, è un perfetto coadiuvante, anzi è un esaltatore, anzi è un conservatore di abbronzatura. Quindi vestita di bianco, ancora collare salmastra nei suoi capelli sciolti, lei, la pescatrice a strascico, che avrà passato sicuramente una fantastica vacanza, piena di prede succose. L'estate com'è andata da donna libera? L'estate da donna libera è andata, vabbè, bene, no, ma me la sono goduta tranquillamente in barca a vela, ho fatto... Te sei goduta in barca a vela? Sì, nel senso me la sono goduta perché ho comunque goduto del bel mare e del bel tempo che ci è stato concesso. Sì, ma non credo tu sia andata in vacanza per il bel mare e il bel tempo, scusa. Ma tu lo sai che sono una donna per bene io. Proprio da donna per bene, scusa. In barca a vela con chi sei andata? Avevi uno skip personale? C'era uno skipper sposatissimo, quindi lungi dalle mie aspettative. Perché gli uomini sposati secondo te cosa sono? Mica sono neutri, sono sposati. No, ma non cerco, non sto alla caccia, tra virgolette, di uomini sposati, non mi interessa. No, vabbè, in mezzo al vasto mare, nel procelloso mare, tutto può accadere. Non eravamo soltanto lo skipper ed io, c'erano anche altre persone. Che ne sapevo? Dimmelo, quanti eravate? Eravamo 9 persone, tra cui anche dei ragazzi, per cui insomma... Ma come eravate assortiti, amici? Cosa eravate? Diciamo che è un'agenzia online dove ci si inserisce e poi si parte. Ma tipo avventure nel mondo, queste cose qua? È proprio quella. Ah, avventure nel mondo, conosco infinità di persone. Beh, è vero, è un marpionificio ufficializzato, lì ci si va solo per quello, ci vanno. Però o donne appena lasciate, o appena abbandonate, separate, o maschi che non hanno altro di meglio che andare lì. Non è stato questo caso, erano tutti single. tengo, lo scommetto. Niente, guarda, c'erano delle tutte donne, tra l'altro c'era soltanto lo skipper che era il problema, tutte otto donne più lo skipper. Cioè, guarda, era praticamente eravamo sei donne e poi c'erano due ragazzi trentenni e poi c'era lo skipper. E questi ragazzi com'è, da soli decidono di andare con avventure nel mondo, non c'hanno amiche? Cioè, no, erano da soli, E vi siete conosciuti prima di partire, come funziona? Ci siamo conosciuti sulla barca. La prima volta si è visti come un reality. Ciao, come stai? Sì, è proprio così. Questo è il bello di avventure, che comunque vai, fortunatamente tutti quanti hanno le stesse aspettative rispetto al viaggio, sono tutti molto tolleranti. Cioè, quale sarebbe l'aspettativa? L'aspettativa base? È che comunque non ti devi aspettare niente, che devi essere molto spartana e comunque devi, sai che devi condividere 14 metri di barca per una settimana. È molto divertente, che unisce all'avventura del viaggio anche il fatto che conosci persone nuove, è una cosa bella. Certo. Qualche anno fa andai in Norvegia, stesso discorso, oppure ho fatto altri viaggi qua in Italia. E non hai mai avuto, diciamo, finito il viaggio, come funziona? Ci si sente ancora? Si fa il gruppo su WhatsApp? Con qualcuno ancora mi sento, su Facebook. Fate il gruppo su WhatsApp o su Facebook e vi sentite? Sì, magari con qualcuno sì, certo, non con tutti, magari sai, con delle persone c'hai il feeling e con altre no, è normale. Come quindi è nato altre. Qualcosa fra la Norvegia e il viaggio in barca? No, c'è un'amicizia però tra donne, non è nato, sai. Beh, che io scopri un nuovo universo, è giusto, no? le mie avventure te le ho sempre raccontate. No, lo so, infatti non cederei. Prima che mi lasci e che scendo, guarda, ti devo raccontare. No, figurati, io c'ho tutto il tempo. Un incontro che ho fatto forse un mesetto fa, sarà stato fine giugno, luglio. Prima delle vacanze, allora. Prima delle vacanze, proprio sì, all'inizio dell'estate. Questo tipo che mi ha contattata sempre sul sito dove io comunque. Beh, certo, allora. Il territorio di pesca strascico. Il territorio è quello, sai, no? Il territorio di pesca. Quindi questo, un romano con tanto di bella foto, un bel uomo, niente da dire. Quindi mi ha detto, visto che io non sono di Roma, te l'ho già detto, e quindi che lui in quella sera sarebbe stato nella mia città, per cui avrebbe avuto voglia ed interesse di incontrarmi. Beh, non stai manco lontanissima da Roma, diciamo. No, non sono lontana, comunque sono un po' lontana, e quindi niente, ci incontriamo in questo parcheggio in prossimità. Cioè, tu dai appuntamento a uno sconosciuto in un parcheggio di notte, sei folle. Sì, sei penso proprio. Vabbè, già leggo i titoli. Trovata signora squarciata con una motosega e un Black & Decker. È il titolo che mi dicono le mie amiche. Ma è così. Perché le conosci? Vabbè, comunque. Ma tu quale precauzione? Quando vai a fare una cosa del genere, che avventato, perché non sai. Lascio il cellulare del tipo almeno a qualche amica. Vabbè, quando ti ha ammazzato risolvi poco. Vabbè, magari. Dovresti tenere te sempre il telefono acceso, acceso e farti chiamare dall'amica ogni mezz'ora. Così mi faccio chiamare. Anche perché è una via d'uscita, ti chiama, dice: ah, scusa, c'è un'amica, devo andare. Infatti, sì, no. O esci un attimo, vado a telefonare e scappi. E sei di quello che affila i coltelli. Sì, ma io devo essere proprio impazzita, un giorno o l'altro troverai. Quindi sei andata nel parcheggio di notte? Erano le 9:30 di sera. Ah, perché in un parcheggio, non in un locale? In un parcheggio perché lui, non essendo del posto, quello conosceva. Vabbè, ma è un posto isolato, non da posto. Te lo dico come consiglio, ti consiglierei un posto dove c'è gente almeno. Dove no? C'è gente, sì, penso proprio che tu abbia. No, mi dispiace, poi dopo perdo un interlocutore prezioso per la mia trasmissione, capito? Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Per farla breve, io ho parlato con questa persona per almeno un paio d'ore, siamo stati 2 ore e mezzo. In macchina, seduti in macchina? No, stavamo seduti su una panchina sul mare. Ah, dal parcheggio sei passati alla panchina? Sì, il parcheggio era sul mare, mi sono dimenticata. Ah, vista mare. Precisare. Okay. Quindi avete parcheggiato entrambe le automobili, vi siete seduti? Sì, siamo andati a piedi e siamo andati seduti. Quindi come Woody Allen davanti al ponte di Brooklyn. E voi invece stavate davanti al mare aperto? Il mare, sì, con tutte queste barche a vela. Ci stava veramente. Con le fogne a cielo aperto, tutto quello che c'è nel mare vicino. No, c'era profumo di mare, dai. Vabbè. E beh, sei vicino a Roma. Per cui niente, ci siamo saluti, abbiamo parlato di tutto un po' e poi... Lui com'era? Com'era lui? Un bell'uomo, un po' tatuato, ma insomma... Vabbè. C'è coatto? Sì, aveva del... No, non era un coatto, ma no, assolutamente. E il tatuaggio come è fatto a vederli? Aveva una maglietta molto... Il tatuaggio aveva una t-shirt, quindi... C'era sulle braccia, poi dove? I tipi erano, sì, era... Palestrato? Spaventava, no, non tanto. Questi tatuaggi lui mi diceva che li aveva comunque fatti quando lavorava nelle varie parti sperdute del mondo. E che lavoro faceva? Ma non ho ben capito, perché si presentava come. come un architetto, dopodiché poi non so se lui in realtà lo fosse oppure mi stava raccontando. Cioè viaggiava su un cargo che batteva bandiera panamense, queste cose. Beh, cioè, ne raccontano talmente tante, ma talmente tante che veramente sono... Vabbè, incerto il mestiere, tatuaggi, com'era vestito? Bene, elegante? Una t-shirt e un paio di jeans, niente di che, però comunque molto pulito, molto carino, sobrio. Profumava, sì. Capelli tagliati bene, barba naturalmente. No, la barba non ce l'aveva, vedi, era glabro. Età? Questo glabro, 53? Sì, 53. Beh, un bell'uomo. Bell'uomo, sì. Se non che quando poi ci stavamo accomiatando, saluti, addirittura mi ha stretto la mano, non ha usato niente. È finita così, cioè vi siete visti tutta sta fatica a parlare sulla mano. Aspetta che adesso viene. Ma ti ha offerto qualcosa da bere? No, perché tutti i bar erano chiusi, quindi nemmeno... Vabbè, uno sfigato totale, almeno dico... E quindi lui mi almeno poteva portare una bottiglia di champagne, niente, una cosa. Sì, ma no, quegli uomini lì sono morti, sono proprio estinti, quelli non ci stanno. Cioè, più. Avrei portato una bottiglia di tequila, l'avrei portata, almeno bevi qua. Se rimani sulla panchina, bevi. Nemmeno questo. Nemmeno quello. Vabbè, te chiacchierare, sai, palle, 2 ore a chiacchierare. Vabbè. Ci siamo salutati e lui mi dice: adesso tu per andare verso la tua città devi girare a sinistra. Dico, certo, ovviamente la mia città è là. E quindi io invece per tornare verso Roma devo girare a destra. Ok. Quindi lui va avanti a me e se ne va e gira verso destra. E io me ne vado verso la mia città, verso sinistra. Ma vi siete lasciati dicendo ci rivediamo? Ci rivediamo, ci sentiamo domani, il telefono, ok. Quando faccio qualche chilometro poi, come dire, avevo dei dubbi rispetto a questa persona, no? Mi dice che devo girare a sinistra, tu giri a destra. Che gliene fregava lui che dove giravi, capito? Infatti, che gliene fregava. Mi sono fermata, quindi ho spento le luci, ho spento la macchina ed ho aspettato che lui passasse, perché ero convinta che lui sarebbe passato. Ah, quindi ha fatto finta di andare dalla parte opposta e andare nella tua direzione? Già. E questo già. Perché, secondo te? Cosa hai dedotto? Perché lui era della mia città, in realtà. Ah, un tuo concittadino? Un mio concittadino. Quindi, in realtà, è passato dopo 10 minuti, io ho acceso di nuovo la macchina e l'ho seguito. E dove è andato? Ho fatto un pedinamento. Fino a vicino a casa tua, magari. Non lo so, guarda, perché poi lui ha preso un senso unico al contrario. Io l'ho seguito perché lo stavo pedinando, quindi da buona pedinatrice, no, dovevo farlo. Dopodiché mi sono spaventata perché un senso unico al contrario è comunque pericoloso e poi l'ho perso, insomma, ecco, sono tornata a casa. L'ha fatto per seminarti praticamente. Per seminarmi, perché evidentemente poi se ne è accorto. Ah, certo, che t'ho visto, l'ha seguito. Figurati, dice, guarda. Quindi non ti ha più chiamato naturalmente? No, ci siamo sentiti il giorno dopo, poi gli ho mandato un messaggio, di vabbè, ma dai, sei un macello, perché... Ah, gliel'hai detto? Mi prendi per il culo. Sì, ma non puoi prendere un senso unico al contrario, è pericolosissimo anche se... E lui che ha detto? E lui, ma tu non potevi, non dovevi non seguirmi perché ti dovevi fidare di me, ma di che stai per là? Mi dici che sei di una città quando invece sei di un'altra? Vabbè cara... Lei lo poteva andare anche meglio l'estate, tutto sommato, però siamo ancora vivi e questo ci conforta. Evviva. E fa sì che tu adesso possa scendere alla tua stazione e mantieniti viva fino alla prossima volta, perché no, certo che sì. Sei uno degli elementi importanti del mio viaggiare. Ciao. Grazie, ciao, buona giornata. Il treno va. Naturalmente anche l'immancabile appuntamento dell'audiolettera dedicata ai problemi relazionali in senso più vago non poteva esimersi dal trattare un argomento legato alla delusione sentimentale, alle attese amorose e il periodo perigliosissimo della vacanza. L'estate è un bel periodo, perché l'estate, devo dire, che incrementa e fomenta i nuovi amori, ma dà anche una sorta di piacevole verniciata a quelli che apparentemente sembrano stantii. Siamo tutti più belli, siamo tutti più magri, siamo tutti più spensierati. Il clima e la composizione del tempo e della luce favorisce naturalmente l'accoppiamento, la fascinazione, le passeggiate, le giornate sono lunghe, l'aria è profumata, soprattutto se hanno meno pensieri. Si ha meno gente fra le scatole e soprattutto si è una sorta di euforico clima generalizzato in cui sembra di essere tutti come quelle pubblicità dei caroselli degli anni 60, i giovani che corrono spensierati per la spiaggia deserta, mare è procelloso allo stesso tempo amico e affascinante, e anche il cavallo bianco del Pino Silvestri Vidal che galoppa sulla spiaggia ci sta anche bene. Caro Gianluca, Ho 29 anni, lavoro da 3 e vivo da sola da 2. Ho sempre avuto tanti amici e sono anche abbastanza sicura di me. Non mi sono mai mancati i corteggiatori. I miei mazzi di rose a casa li ho ricevuti. Gli sguardi per strada li avverto e non mi dispiace. Ma non ho molta fortuna con gli uomini. Almeno sul lungo periodo sono incostante, inquieta, e l'altro inevitabilmente se ne accorge e si sente trascurato. E di passare il tempo a rassicurare non mi va. Le mie storie naufragano così, spesso in modo silente e inesorabile. Ma senza stare ora a fare l'anamnesi della mia vita sentimentale, passo all'ultima vicenda, per me emblematica. Quest'estate ero al mare con due amiche e ho conosciuto un ragazzo mio coetaneo. Era fine luglio, per me l'ultima settimana di vacanze, e ormai già pensavo a tutte le cose da fare al rientro e soprattutto che anche stavolta a settembre sarebbe stato un mese dolce, malinconico ma solitario, vista la mia sfortuna in fatto di uomini. E invece arriva lui. Ci notiamo subito, un'attrazione fisica straordinaria. Mi sembrava così familiare, così vicino a me in tante cose. Il primo bacio arriva subito e l'ultima settimana di vacanza è stata una luna di miele, inseparabili, senza alcun pensiero se non quello di stare insieme e divertirci. Arriva il momento della partenza. Lui vuole rivedermi a Napoli, che è anche la sua città. Ma non essendo un'ingenua e sapendo bene che la magia di certe situazioni può facilmente svanire insieme all'abbronzatura, gli chiedo se è proprio sicuro di volermi rivedere. Gli faccio questa domanda perché anche se a malincuore e soffrendo avrei accettato da parte sua anche un «grazie, è stato bello, ma chiudiamola qui». Lui invece mi dice che non è mai stato così sicuro di qualcosa in vita sua, anche se ovviamente aggiunge che dobbiamo fare le cose con calma. Io penso dentro di me che chiedevo a lui conferme, ma in fondo le chiedevo a me. Ero così sicura di volerlo rivedere. Sì, anche per me la risposta era sì, con quel sottofondo di scetticismo che mi porto dentro da sempre. Nel frattempo ci sentiamo via WhatsApp e al telefono quasi tutti i giorni. Ed eccoci in città. Spesa, bollette, parenti, amici. Ma stavolta il rientro è diverso. Ho un pensiero nuovo. A lui. Ecco, questa ascoltatrice è caduta nella classica trappola amorosa estiva. Noi uomini siamo fantastici d'estate, ci puzzano meno le ascelle perché a forza di fare il bagno nel mare, di stare sulla sabbia, anche diciamo le essudazioni da camicia in tessuto sintetico, da frequentazione di colleghi d'ufficio, da metropolitane stipate, in qualche maniera viene attenuata. Sembriamo tutti più liberi, sembriamo tutti dei corsari, anche perché le creme abbronzanti e i lettini abbronzanti vengono copiosamente usati. Quindi anche lei ha trovato l'uomo che l'ha affascinata. Anche lei ha deciso di accelerare quello che è il processo di meditazione e di attesa di fronte alla perplessità che potrebbe porre l'inizio di una nuova storia. E lei ci si è buttata. Riprendiamo a vederci subito. Andiamo a cena in un ristorante sul mare. Anche qui c'è l'atmosfera che ci ha avvolto solo un mese fa. Le onde sulla spiaggia, la luna. Sembra di essere in vacanza. Se chiudo gli occhi avverto ancora i profumi dell'estate, della nostra pelle, della nostra passione. Bene. Ci rivediamo ancora per due volte a distanza di qualche giorno. Ecco che già alla terza uscita si insinua una nota dissonante. Lui è attento e premuroso, ma sembra frenato. Non c'è quella spontaneità. Lo sguardo non è incollato al mio come prima. È come se temesse quello stare soli, come se volesse togliersi di torno la serata velocemente. E mi trasmette l'inquietudine. Mentre mi tiene la mano e parliamo, inizio a pensare ad altro. E mentre ci beviamo un caffè un pomeriggio in un bar, sento un po' di imbarazzo, come quando uno deve sostenere la conversazione un po' per forza. Non capisco se è da parte mia o sua, o forse è di entrambi. Eppure ci piacciamo, ne abbiamo avuto la prova. Non penso che lui mi nasconda nulla. Non è sposato né fidanzato. Fatto sta che l'appuntamento successivo viene rimandato da parte sua per impegni di lavoro. I messaggi si diradano e comincia a cercarmi di meno. Non mi scrive anche quando io lo vedo attivo su Facebook. Oggi ci siamo risentiti e siamo d'accordo per vederci domani sera. Ma io sono sempre meno convinta e mi chiedo perché. Reggeremo l'autunno, l'inverno, il Natale? Le mie amiche mi hanno preso in giro dicendomi di regalargli subito il panettone, anzi il pandoro, perché probabilmente non lo mangeremo insieme. Non so se ridere o piangere, perché io Ci avevo creduto. E mi lascia così interdetta il fatto che qualcosa di forte si possa sgretolare nel giro di pochi giorni e senza che siano accaduti fatti eclatanti, ma così, quasi per naturale sfilacciamento, senza grandi sofferenze, senza tormenti particolari. Cioè sembra lo stanco finale di una storia di anni appiccicato su una passione di una settimana. È quella che l'esimio Fabrizio Intonti definisce nella sua Summa teosofico-filosofica la prova del cappotto. E quando ci si spoglia la camicia hawaiana, il pantaloncino al ginocchio e la ciabatta infradito e si rimette la divisa consueta di un anno di lavoro, l'uomo perde il suo fascino, anche la donna in parte, ma le donne poi hanno mille risorse, si tengono sempre, diciamo, all'altezza della situazione, gli uomini diventano altre persone e quindi questo fantastico sciacallo, questo pirata e corsaro rapitore di palpiti amorosi è diventato un normale umarel, un impiegato, un uomo assatanato dal suo lavoro e quindi comincia lievemente, sottilmente, inconsapevolmente a farle un po' schifo. Che devo fare, Gianluca? Cerco di rilanciare quella che poteva essere una bella relazione o lascio andare le cose? Devo dirgli quello che sento e soprattutto perché siamo fatti così? Perché a volte lasciamo andare con noncuranza ciò in cui abbiamo riposto tante energie? Perché non abbiamo più voglia di impegnarci e far funzionare una cosa potenzialmente forte? Non parlo di matrimonio, che ormai è mera utopia, ma almeno una stagione la si potrebbe condividere, così, per vedere perlomeno l'altro come si veste in inverno, no? Ciao, Lucia. Bella domanda. Rinunciare a quella cosa potrebbe essere una bella relazione, ma non è una bella relazione, è una tortura. Nessuno dei due ha più voglia di vedersi e soprattutto te non hai più voglia di vederlo, perché lui sa, gli uomini siamo fatti in maniera molto semplice, poco complessa. In fondo una donna che te la dà alla fine gratuitamente, simpaticamente, è una maniera per sfangare una giornata e quindi lui, finché tu non lo accanni, continuerà comunque a vederti ogni tanto, perché cosa gli costa? Già solo il lato positivo per te è un po' diversa, te ti ci stai impegnando, te che probabilmente eri abituata a un cambio dell'olio trimestrale, a questo punto di vista pensare che non puoi farlo perché sei messa in una relazione è duro da pensare. Io ti do un consiglio: lascialo, perché se lo ami, come non credo, ma probabilmente tu ancora nel profondo delle tue giustificazioni che devi dare a quella che è stata soltanto un'avventura di sesso estivo, dici che l'ami, che l'inizio di una storia, finalmente hai pensato che l'uomo giusto, ti accorgerai che non te ne importa più niente e quindi andrai tranquillamente a cambiare l'olio un'altra volta e vivrai la tua vita come te la sei impostata ormai da anni. Ma nel caso malaugurato, credo molto poco probabile, che tu ne senta la nostalgia e la mancanza, avrai un barlume di prova che forse questo potrebbe essere, se tu sei di bocca buona, se tu sei disposta a sopportarlo, se tu sei rassegnata, l'uomo con cui puoi passare magari poco più di una stagione o magari forse potrebbe essere una storia che ti condannerà tutta la vita ad avercelo vicino. Expressing your uncertainties through years of anniversaries, then 5 years down the line, you say she was never my type. Si avvisano i viaggiatori che il treno da delle 11 ripartirà domenica prossima dalla stazione di Radio 24. Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno da @radio24.it.